Video game. Video game. Visto che hai cliccato, ti faccio ascoltare i primi due livelli del gioco che ti permetteranno di portare a casa l'edizione speciale di Assassin's Creed Brotherhood. Livello 1. Arde nel caminetto. Livello 2. La lingua dei papi. Per vincere dovrai sconfiggere il mostro di fine livello e per farlo dovrai ascoltare la puntata di 2024 di questo sabato. Game over.